Non possiedi una patente da vero rocker? E sei perplesso? Hai una patente da vero rocker, ma ne vorresti un'altra? E sei indeciso? Hai una patente da vero rocker, ma vuoi fare il test attitudinale per dimostrare ad Ari e le friche che non ti interessa della patente da vero rocker? Titubi? Titubi? Titubi o titubi? Insomma, rompi gli indugi, non titubare! Vieni, se hai fegato, sabato 1 marzo al garage di Via Marelli 280 a Sesto San Giovanni, dal vivo! Ipei! Roberto Friccantoni! Ariel DJ! Il test attitudinale e la patente da vero rocker! Il calendario 2008, l'anno della svolta, e la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll al completo, con anche Mr. Trombetta e il mitico Isaac Rizzi in persona. Non mancare per nulla al mondo. Chi manca è un titubone. Signore e signori, sono le 7:01. La voce che vi arriva dagli altoparlanti è quella dell'Ariele. Ciao, buona giornata, buon mercoledì 20 febbraio 2008, l'anno della svolta. Quella di oggi è la puntata 187 della colazione mattutina servita in diretta sulle frequenze di Rock FM, che risponde al nome di Pane, Burro e Rock and Roll. Sembra che ieri non ci siamo sentiti, o è una mia impressione? Ah, non ci hai ascoltato ieri, eh? Pane, burro e rock and roll. Problemi tecnici, anzi. La tua colazione rock. Problemi tecnici, come si dice dalle mie parti. Pane, burro e rock and roll. Ma oggi ci siamo, e allora, gran figata! If every good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ovviamente era un inizio ironico, in riferimento ai tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto ieri mentre eravamo qui isolati dal mondo e oggi di gente disperata dell'assenza del primo pasto della giornata, quello più importante, la colazione, che ieri per causa tecnica, anzi ripeto per cause tecniche, non è andato in onda. Ma oggi ci siamo, dovreste sentirci tutti. Ciao, qui da Milano, Pane, Burro e Rock and Roll. Dall'altra parte del vetro c'è, come al solito, il buon Spadino. In Eurostar, che sta frenando in stazione centrale a Milano, mi sta arrivando anche Roberto Friccantoni, il prezzemolo di questa colazione. Sì, una colazione rock prevede la presenza anche di un po' di prezzemolo, così per insaporire il pane e il burro. Pane, burro, rock and roll e prezzemolo. Potremmo cambiare. Puntata 187, nella quale ho parecchie dichiarazioni da fare. Devo svelare parecchi segreti, devo annunciare parecchie cose che accadranno nel corso delle prossime puntate. Insomma, come al solito, il tentativo è quello di riempire la nostra colazione al meglio. Intanto, bentornati sulle frequenze di Rock FM. Quest'oggi iniziamo così. Yeah, I'm free. Sono libero, fratello. E sorella, ovviamente. anche ad Alex, ma non sono i Cream, sono gli Who. È fico lo stesso. I'm free. Bentornati sulle frequenze di Rock FM. Saluto subito, immediatamente Tino. Mi fa notare che Prozzemolo è la mascotte di Gardaland. Ci chiede, avete traviato anche lui? No, hai ragione, cambiamo allora. Fricantoni è il rosmarino di pane, burro e rock and roll, così va bene? Non dovrebbero esserci mascotte che si chiamano rosmarino. Un saluto anche a Yuri, disperato per il blackout di ieri. Siamo tornati, mi piace molto la sua firma, Fraziollo ma non mollo. Questo è dedicato ai numerosi ascoltatori e radioascoltatrici che chiamiamo frazionati, che ascoltano pezzettini incompleti di pane, burro e rock and roll. Il tempo, che ne so, di entrare in macchina, andare in ufficio, di lavarsi i denti, non so, dove avete abitudine di ascoltare la radio a quest'ora della giornata. Noi, in ogni caso, anche per quel breve momento in cui entriamo in contatto con la vostra esistenza, noi, insomma, abbiamo piacere, ecco. Era una dichiarazione d'amore, ogni tanto la facciamo così gratuita per convincervi a restare sulle nostre frequenze. Vi ricordo il numero di SMS, che è il 335 100 77 77, e la casella di posta elettronica. È parecchi giorni che ho una carogna niente male per quanto riguarda le centinaia di messaggi spam che ricevo nella casella di posta elettronica. Capita però a volte che uno di loro, di questi messaggi, rapisca la mia attenzione e riaccende quella fiammella che ho in pieno petto, che è la speranza un giorno di essere contattato. Io professionalmente vorrei farla questa cosa, questo passo avanti, da qualcuno che si occupa di inventare gli spam e mi chiedesse una consulenza. Io vorrei inventare delle mail di spam, perché secondo me alcune hanno un loro perché. Per esempio, quella di oggi è molto interessante. Lo spam, ovviamente, per chi non lo sapesse, è stupido spiegarlo, sono quelle mail che ti arrivano per convincerti fondamentalmente a entrare in un sito dove poi ti becchi un virus o quant'altro, roba così, no? Quindi è carino il tentativo di scrivere qualcosa che carpisca l'attenzione di chi andrà a riceverla. Poi è ovvio che è semplice fare quello un po' sul pruriginoso, no? Sul sessuale, sono donna russa, cerco uomo, contatta me, io faccio gratis, quelle cose lì, è semplice, lo becchi. Devo dire che questa mail invece oggi mi ha colpito. Base romantica non è proprio adeguata a Spadino, però per sottolineare, la mail di spam che vince questo mercoledì 20 di febbraio ve la dedico, me la scrive Mauro ed è intitolata Sei indagato. Messaggio: cerca di nascondere subito tutto e fai veloce. Il tuo nome è comparso questa mattina insieme a quello di altri 150 indagati sul sito della CAF di Roma. Controlla tu stesso, sei nella lista di gennaio. Il sito è questo e c'è il link. Post scriptum: in ogni caso io non esito. Mi raccomando, non fare mai il mio nome. Mario, non faccio il tuo nome. Mauro, scusa. Grazie per la segnalazione comunque. Buona, perché se uno ha un po' la codina di paglia, capito, ci va a vedere che cos'è. Evviva gli spam! Voglio diventare un hacker, ragazzi. Mollo tutto, eh. Scriverei degli spam meravigliosi. Avanti anni luce. I'm a man, Spencer Davis Group. Yeah. splendida giornata a Roberto Fricantoni, direttamente da Bologna, il nostro rocker di riferimento. Che ricambio, ricambio, ricambio amici in ascolto ed amiche all'apparecchio. Eccolo lì, il foglietto rosa. Con lode all'almanecco. No, ah, perfetto, licenza poetica, esatto. Là fuori non fate gli spiritosi. Esatto, qui ci si permettono delle licenze. Vada. Sempre duro l'almanacco che ci tiene tutti in scacco. Scacco. E noi, per dispetto, lo usiamo come stacco. Lo mettiamo dentro il sacco, come dice anche Isacco. Un saluto anche ad Isaac Rizzi. Isaac Rizzi della redazione. Magari l'hai impagato. Oggi iniziamo l'almanacco del 20 di febbraio con una notizia curiosissima. Sì. E molti si lamentano dell'inno di Mameli, ma forse non tutti sanno che. Sardo, era sardo. Mameli. Anche Mameli? Sì. Era un link perfetto, perché prima dell'inno di Mameli avevamo l'inno del Regno di Sardegna, perché l'Italia era ancora Regno di Sardegna, e nel 1844 nel Teatro Civico di Cagliari viene eseguito per la prima volta Simmu Sardu Nazionale. Ah, come faceva, scusi, può ripetere il titolo? Simmu Sardu Nazionale. Ah, spero di averlo primo inno bene. Nazionale. Allora, composto da Giovanni Gonella e parole di Vittorio Angius. Ah, benissimo, sardi d'oggi. Certo. Beh, certo, i sardi si sono sempre molto prodigati per gli inni. Per gli inni. Complimenti ai sardi e ai loro inni. 1878, per proseguire, viene pubblicato nella Connecticut il primo elenco telefonico. Sa quanti numeri conteneva? Quanti, la prego? 50 abbonati. Ero d'altra parte, era lì da poco il telefono. Aveva appena iniziato, forse Bella aveva appena rubato Antonio Meucci, facciamo sempre questa polemica. Medaglia, per sostenere. 1909, Filippo 9. Tommaso Marinetti pubblica sulle Figaro il Manifesto del Futurismo. Evento importantissimo all'interno delle avanguardie dei movimenti culturali dell'epoca. E se questo era un passo avanti, la notizia del 1943 è decisamente un passo indietro. I dirigenti degli studi cinematografici statunitensi accettano di permettere all'ufficio dell'informazione di guerra di censurare i film. Della serie tirarsi la zappa sui piedi. Sì. Sa DJ Ariel quando si gode tirandosi la zappa sui piedi? Aiuto, quando? Quando si sbaglia mira. Ah, eh sì, perché se ti becchi. Esatto, non godi tanto. L'ho capita. No sweet baby. would make me be bitter. Rolling Stones. Ho notato stamattina che qualcuno sul nostro spazio myspace.com/paneburro FM chiede se gentilmente posso non cantare. Ma non è colpa mia, è colpa di Spadino, quel baluba. È lui che apre il microfono. Cos'è che c'è lì? Stanno mettendo un albero. Aspetta un attimo. No, sono rapito da una cosa che sta accadendo fuori. Basta musica dolce, Spadino. Cioè, c'è un albero. Ah no, ma è su una macchina, sta andando, scusate. Pensavo piantassero un albero lì, nel quartino di terreno che c'è di fronte. Sapete che sono tornati gli omini che corrono? Guarda lì che ce n'è uno, prima ce n'era un altro. Ma noi, a noi manca lui, l'omino che corre, che fa avanti e indietro. Chissà se mai tornerà in questa stagione nuova. Ci manca tanto. Omino che corri, che facevi avanti e indietro, ci manchi tanto. Pane, burro, rock and roll, lancio questo messaggio, anche se non fosse sintonizzato. Magari le frequenze radiofoniche gli entrano nel cranio. Immagino adesso, chissà dov'è, gli sta fischiando un po', gli fischiano le orecchie. Chissà chi mi sta pensando, dirà. Va bene. Cosa state combinando col segnale a nord di Milano? No, non scrivetemi cose inquietanti così, perché non so rispondere. Patti Pravo, scrive un altro radioascoltatore, dice che adora il chinotto. Che ne dite di far cozzare il Roberto Nazionale con Ella per eventuale tormentone di questa estate? Roberto sta alla Patti come Ariel sta a Rock FM. Ciao, patentato 110. Ragazzi, a proposito di chinotto, avrei da dirvi qualcosa io. Dovrei raccontarvi un po' di cosette che sono accadute nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' particolare, oltre al fatto che il segnale ce l'eravamo giocato, anche per quel problemino là del chinotto. Ma ve lo dico più avanti. Intanto provo a salutarvi un po' alla buona, alla rossa, Davide, il buon Manuel, Michela. Che giornata di cacca ieri, oltre al danno la beffa. Non vi ho potuto sentire, mi hanno anche bocciato all'esame di teoria con 5 errori. Cosa c'è di peggio? Che ne dite di una rubrica di sfogo e lamentele varie, rock? Michela, guarda, se vuoi sfogarti anche in diretta fai pure, chiamaci, noi siamo qui. Basta sentire la vostra voce, per noi è sempre un piacere. Mannaggia, 5 errori alla patente però fa rabbia. Vieni il primo marzo al garage, alla festa di pane, burro e rock and roll. Lì se fai 5 errori vuol dire che le hai sbagliate tutte. 5 su 5 è pesante. Una patente non te la diamo, ma una bella pacca sulla spalla. E se vuoi strombazzatina, non si nega mai a nessuno. Benvenuti nell'inferno. Il nostro inferno è una foresta. Posso fare il rullo per tutta la canzone? Bisogna anche decidere come suonare i Cure, ragazzi, eh? Ieri no, la notte l'ho passata facendo un Guns N' Roses col kazoo. Vi farò sapere presto. Welcome to the jungle.